guardavi nel fondo degli occhi, sfavillava tuo sguardo appassito. Questo il fiore, ti lascio, stendi la mano, bella fiamma d'amore mio ben, o senti se palpita. Sacro a te mia vita, questo abbastanza, rammenta quel cuore. Appassito questo il fiore, ti lascio, stendi la mano, bella fiamma d'amore mio bene, o senti se palpita. Stelle dei nume d'amore, consacro a te mia vita, questo abbastanza rammenta quel cuore. Guarda lontano muore nell'onde il sole. Sobre.